impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Rummo, ovvero la pasta del Sannio, che resiste anche all'acqua delle alluvioni. Di Raffaella Calandra. E abbiamo trovato un'onda di 9 metri all'esterno. I contenitori a 300 metri, i contenitori che dovevano partire per l'estero pieni di pasta erano a 200 metri pieni di fango e acqua, e all'interno 4 metri di fango e acqua che dopo 6 ore si era abbassato tutto, quindi l'acqua era andata via. Quindi in sostanza l'intero cuore dell'azienda è stato danneggiato completamente. Sì, sì, e poi anche gli uffici a piano terra che sono stati travolti dalle acque, quindi distrutti tutti gli uffici, quelli che erano a piano terra. Superata la barriera delle nuvole, il sole illumina in modo ancora più spietato i danni della doppia alluvione che tra il 15 e il 19 ottobre ha inondato il Sannio e distrutto l'area industriale della città di Benevento. Così si cammina tra colline di fango, tappeti di terra, in mezzo a tutto ciò che la furia del fiume ha portato. Quasi non la riconosceva la sua azienda, Cosimo Rummo, dopo la notte della grande onda. Lui ha raccolto l'eredità di 6 generazioni di pastai e a lui adesso, presidente e amministratore delegato del gruppo noto in tutto il mondo, anche la sfida di portarlo al di là di quest'ultima crisi, che gli ha fatto riscoprire però anche l'amore verso il loro marchio. Noi abbiamo avuto le istituzioni, i sindacati, i lavoratori vicini, hanno lavorato con noi e devo dire con grande passione per risollevare subito l'azienda e farla ripartire nel più breve tempo possibile. Quindi, quante persone lavorano alla Rummo? 150 persone dirette e 150 persone indirette, quindi 300 famiglie. Ecco, quindi c'è stato un grande slancio di solidarietà di vicinanza innanzitutto da parte dei vostri dipendenti. Sì, ma anche delle istituzioni. Dopodiché c'è partita anche questa campagna mediatica con uno slogan. Questa spontanea praticamente, noi siamo rimasti commossi per quello che è stato fatto per la nostra azienda a livello nazionale e internazionale, quindi una cosa inimmaginabile. L'acqua non ci ha mai rammollito. Per una pasta a lenta lavorazione, la resistenza all'acqua è una caratteristica fondamentale, si sa. E questo hashtag, ben presto diventato virale sui social per portare solidarietà a una delle aziende più colpite dall'alluvione, si è tramutato nella parola d'ordine dell'intero Sannio, costretto a resistere all'acqua nera e distruttiva arrivata dai suoi fiumi. Dal calore, dal sabato, eppure dai torrenti, come il Tammaro che attraversa proprio l'area industriale, ridotto in genere a poco più di un rigagnolo. Nei giorni dopo la grande piena, invece, si camminava tra tronchi d'albero, sradicati chissà dove, e capaci di sventrare i capannoni dove lavorano 1500 persone. Quasi si faceva fatica a capire quale fosse il letto originario del fiume, diventato ora il sorvegliato speciale. Sotto accusa è finita la manutenzione degli argini, ma guardando con ottimismo al futuro, Cosimo Rummo cerca di tramutare questa sventura in un'occasione per migliorare la città, con un progetto, ad esempio, di prevenzione contro il rischio idrogeologico. Vogliamo essere vicino al territorio e quindi un progetto per aiutare non solo il territorio, ma anche quelli che si troveranno in futuro in difficoltà in Italia per queste stesse tragedie. Che vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo pensare ad aiutare chi un domani si dovesse trovare ad avere le stesse situazioni drammatiche di un'alluvione, ma ancora di tutto non è un'alluvione. Oggi con questi discorsi climatici è stato uno tsunami, l'ufficio completamente distrutto come se una bomba d'acqua è entrata, un'onda di 9 metri, una cosa impensabile. Quindi noi vogliamo in futuro aiutare anche chi si trova in difficoltà. Con un fondo, in che modo? Non lo so, adesso praticamente sono delle idee, adesso l'esecuzione non c'è. Siamo a pochi giorni da questa situazione drammatica, ma dobbiamo pensare ad aiutare anche le piccolissime attività che si sono trovate in questa difficoltà. Quindi l'obiettivo è, diciamo, ripartire, rinascere con uno slancio in più e anche con uno sguardo di solidarietà verso gli altri. Sì, sicuramente è importante. Vi posso dire che il gruppo BMW ci ha dato delle 11 mini auto. Noi daremo queste 11 auto per un mese a tutti i dipendenti che hanno avuto le macchine perse nel fiume e sono state travolte. E il gruppo Ermenegildo Zegna, Paolo Zegna, quest'anno a Natale farà tutti i regali a tutti i dipendenti della Rummo ed è una cosa commovente. Quindi c'è stata una grande gara di solidarietà intorno a voi. Sì. Ecco, questo anche perché il vostro è un marchio, diciamo, noto, ma che ha alle spalle una storia di imprenditoria familiare nel sud Italia. Ecco, che cosa rappresenta la Rummo in questa realtà? Sei generazioni della famiglia Rummo che hanno lavorato in questi ultimi 7-8 anni nell'eccellenza. E la cosa bellissima è che ci viene riconosciuta una grandissima capacità di fare eccellenza, e nel sud sappiamo fare bene il cibo, ormai ci viene riconosciuto a livello mondiale, tutto il sud sa fare eccellenza nel cibo, quindi dobbiamo aiutare questo territorio, il sud, a sottolineare la capacità di fare altissima qualità e differenziarci rispetto agli altri, anche perché teniamo delle grandissime capacità di risorse umane che sono bravissime a fare l'eccellenza nel cibo. È nato prima dell'Unità d'Italia questo pastificio, che da sempre fa da raccordo tra il grano della Capitanata, ossia il foggiano, e il napoletano. E da sempre la storia dei Rummo è stata legata anche a quella di un fiume, il Sabato, e di un ponte che permetteva alla via Appia di raggiungere l'antico mulino, da dove, fin dal 1846, come recita la biografia dell'azienda, si usciva con i cavalli Bruto, Baiardo e Bello alla ricerca dei migliori grani duri. Di generazione in generazione, il nome Rummo, che ora vanta un fatturato superiore ai 100 milioni di euro, ha seguito le rotte dell'emigrazione degli italiani, arrivando prima in Europa, per poi sbarcare negli Stati Uniti e in Australia. 45 nazioni dei 5 continenti mangiano i 140 tipi di pasta Rummo, la prima ad aver avuto una certificazione per la tenuta durante la cottura. E con orgoglio il presidente Cosimo Rummo snocciola i traguardi raggiunti, nonostante la tripla difficoltà, dice, di fare impresa in Italia e al sud. Inghilterra, Francia, cioè voglio dire, in Francia stiamo coprendo tutto il territorio francese e i francesi sono amanti del cibo di alta qualità, è innegabile. E poi in Belgio, in Olanda, in Lussemburgo, negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone. Tutti i mercati dove gli italiani negli ultimi 200 anni sono andati a vivere, quindi gli italiani di seconda, terza e quarta generazione degli ultimi 100 anni. Un marchio italiano in giro per il mondo, questo in sostanza è la Rummo, lei lo definirebbe così? Anche in giro per il mondo, ma anche moltissimo nell'Italia del Nord, in Lombardia, in Piemonte, in Toscana. Ha invitato i ministri a visitare la sua azienda adesso colpita dall'alluvione? Sì, sì, ma sono già informati. Noi abbiamo informato subito il governo, il Presidente della Repubblica di quello che stava succedendo, gli abbiamo fatto avere un servizio fotografico e sia il governo centrale che quello locale stanno collaborando in maniera fantastica. Ora di cosa ha bisogno la realtà industriale di Benevento? Di rimettere tutto a posto, sicuramente tutti gli impianti elettrici sono saltati. Perché quindi con finanziamenti? Chiaramente bisogna avere dei finanziamenti straordinari, è normale, su un'economia drammatica straordinaria ci vogliono dei finanziamenti straordinari. Io credo una cosa, per favore fate presto e non incominciamo a fare i balletti e le tarantelle, se vogliamo utilizzare una parola meridionale. Se non ci sono i soldi o i contributi a fondo perduto, date dei finanziamenti agevolati come fate nei ponti, nelle ferrovie a 30 anni, a 40 anni, perché avere un finanziamento a 30 anni, a 40 anni è molto meglio che non avere dopo 10 anni un contributo a fondo perduto. Forse questo è il momento in cui anche gli ultimi annunci da parte del governo di rilanciare il sud, di dare un segno concreto in questo modo. Una doppia difficoltà di fare impresa qui? È una tripla difficoltà per fare impresa. La prima difficoltà è un fatto culturale, la seconda un discorso burocratico, la terza un fatto politico. Sono pochi i politici che stanno a fianco delle imprese ed è poca la burocrazia che sta a fianco delle imprese, quindi come regola fondamentale. E quarto, praticamente pure gli imprenditori hanno le loro colpe, che molte volte praticamente non sono preparati ai progetti di internazionalizzazione e ai progetti per creare dei sistemi competitivi a livello internazionale, e quindi un fatto culturale trasversale. tenace e resistente, proprio come i Sanniti, che qui fecero patire al glorioso impero romano l'onta delle forche caudine. La pasta Rummo, dopo la doppia alluvione di ottobre, è diventata il simbolo della forza di tutta la provincia di Benevento, che resiste all'acqua nera dei fiumi. Ai danni della distruzione, eppure al rischio di una nuova emigrazione, che questa alluvione potrebbe alimentare senza aiuti concreti e veloci. Lo temono in tanti, ma sono ancora di più quelli che da queste parti non sono proprio capaci di arrendersi e da subito sono andati coi piedi e con le mani nel fango per resistere e ricominciare. Perché l'acqua, appunto, come recita l'hashtag e la storia della Rummo, non ci ha mai rammollito. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.